Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo anche con un appello sulle per le Filippine, ma i temi riguardano oggi soprattutto l'Italia, il balletto di emendamenti sulla legge di stabilità. Ne parleremo sia in apertura che nella seconda ora del programma, perché da questo punto di vista, proprio sul Sole 24 Ore, al di là degli emendamenti c'è un'inchiesta interessante su quanto aumenterà la pressione fiscale. Lo dico subito, il Sole 24 Ore ha scoperto che alla fine, con le nuove tasse, TASI, TARSI, la TARES, si arriverà a spendere sostanzialmente, l'imposta sarà simile se non identica a quella quasi identica a quella della vecchia IMU. Ma al di là di questo, oggi il numero di emendamenti è arrivato a circa 3.000 emendamenti alla legge di stabilità: 992 del PD, 814 del PDL, 372 della Lega Nord, 283 emendamenti invece per il Movimento 5 Stelle e 166 quelli di Scelta Civica. Le proposte di modifica prevedono quella che ha fatto più discutere, anche perché è una proposta congiunta PD-PDL, prevedono una sostanzialmente l'esenzione dall'IRPEF per i redditi sotto i 12.000 euro, altre lo stop alla tassa sulla prima casa anche con l'introduzione della TASI, paletti alle aliquote e detrazioni per i figli, fondi per le piccole e medie imprese da prendere, da recuperare attraverso le accise e le pensioni d'oro, l'aumento del fondo per la cassa integrazione a 1 miliardo di euro. Anche quest'anno spunta l'ipotesi di un intervento su spiagge e concessioni demaniali. Un emendamento del PDL prevederebbe infatti la possibilità di privatizzare le spiagge occupate dagli stabilimenti, vendendole a chi ha il tratto in concessione. Sono 15.000 gli stabilimenti balneari in Italia, garantirebbe, secondo chi la propone, circa 4 miliardi di euro di introiti. Ne parleremo anche perché intanto si preannuncia un finale d'anno molto complicato per i contribuenti. Nei prossimi 50 giorni, infatti, si concentrano le scadenze di 22 adempimenti fiscali tra imposte dirette, IVA, tributi locali. Dovrebbero portare nelle casse dello Stato tra 115 e 120 miliardi di euro, però c'è molta incertezza su alcuni tributi. Il 2 dicembre scadono per esempio gli acconti fiscali, ma il livello potrebbe ancora cambiare. E poi le scelte fiscali dei sindaci saranno ufficiali solo il 9 dicembre e si paga 7 giorni dopo. Ancora non si capisce se a dicembre verrà applicata la TARES o la vecchia TARSU. E poi, appunto, ripeto, c'è il tema della TASI, che renderebbe di fatto sarebbe quasi di fatto una replica identica alla vecchia IMU. Questo è il fronte italiano. Per quello che riguarda invece, poi parleremo anche delle dichiarazioni del ministro Saccomanni oggi, abbastanza ottimistiche sulla crescita italiana nel 2014. Per quello che riguarda la borsa, invece, siamo qua a un rialzo di 0,5 punto percentuale su Milano, assolutamente in linea con Parigi, più 0,60, Francoforte più 0,30, Londra più 0,50, l'America guadagna lo 0,1%. E tra i titoli, bene A2A più 2,20 come UbiBanca, Fiat più 2%, Mediolanum più 1,70, Telecom più 1,5 come ST Microelectronics e Campari, Intesa San Paolo più 1,30 come Fondiera Sai e il Banco Popolare. La Pop Milano guadagna l'1,1%, Enel l'1%. Di Enel parleremo anche perché oggi è stato ospite a Mix24 con Giovanni Minoli qui a Radio 24 il numero uno di Enel, Fulvio Conti. Tra chi perde invece, Azimut meno 2%, Mediaset meno 1,20 come Pirelli, e poi l'1% lo perde Tods, ma anche CNH Industrial, e lo 0,60 il calo di Finmeccanica. Euro a 1,34, quindi di nuovo sui livelli a cui lo vediamo da mesi ormai. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo anche nelle interviste che ciclicamente facciamo con i numeri uno di grandi gruppi italiani della Lega delle Cooperative, perché oggi ha annunciato proprio qui al Sole 24 Ore, presentando una ricerca, che sarebbero ben 700.000 i giovani sotto i 35 anni in Italia pronti ad aprire delle cooperative, quindi a sviluppare un'attività imprenditoriale di questo genere. Ma parleremo anche dell'andamento dei consumi, della tassazione sulla Lega delle cooperative, sulle cooperative, e del loro ruolo di anche raccolta dei risparmi. Alcuni ne accusano infatti di essere di fatto come delle banche di investimenti, senza essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, e quindi con delle agevolazioni da questo punto di vista. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente alle altre notizie, in breve. Allora, partiamo dalle Filippine, perché i nostri GR vi hanno già, ahimè, raccontato l'ecatombe, 10.000 morti almeno ad Ayan, cioè per quello che è stato il ciclone Ayan sull'isola di Leyte, e 300 comunque a Samar, 4 milioni di persone colpite, 620.000 gli sfollati secondo l'ONU. La Farnesina sta effettuando verifiche in seguito a alcune segnalazioni da parte di italiani, però l'UNICEF parla di almeno 4 milioni di bambini che potrebbero essere stati colpiti dal super tifone, e ha aperto una campagna di raccolta fondi. Un contributo è arrivato anche dal Vaticano attraverso Papa Francesco, dal Pontificio Consiglio, 150.000 dollari. Noi segnaliamo e giriamo volentieri le varie segnalazioni che ci arrivano. È molto attiva su questo Medici Senza Frontiere, è molto attiva su questo anche l'organizzazione Oxfam, Oxfam Italia. Tutti gli indirizzi e le informazioni li potete trovare sui siti, ed è molto attiva su questo anche l'organizzazione Defense for Children. Anche qui basta andare sui siti, ripeto, in questo caso Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia e Defense for Children International Italia, e trovate tutte le indicazioni per donare soldi che poi arriveranno alle Filippine, e soprattutto in alcuni casi a donne e bambini. Veniamo ai temi invece europei. La Commissione europea mercoledì potrebbe lanciare un'indagine approfondita sulla Germania per un eccesso di surplus commerciale. L'abbiamo parlato venerdì scorso, 20,4 miliardi la differenza tra import e export a vantaggio delle esportazioni tedesche. Potrebbe arrivare una raccomandazione per rimediare a tale squilibrio. Non possono essere però combinate sanzioni, perché le regole europee non prevedono sanzioni per chi ha un attivo commerciale troppo alto, però questo alimenta i timori che la dipendenza del paese dalle esportazioni stiano ostacolando la ripresa economica dell'area euro. Cioè, se la Germania continua ad avere questi dati sull'export, investire poco a casa sua non crea domanda interna in Germania, e lo squilibrio continua chiaramente a aumentare, visto che l'area euro, si dà il caso, che abbia la stessa valuta e le stesse regole. Spostiamoci in Italia. Già anticipavo le dichiarazioni del ministro Saccomanni, ministro dell'economia, che ha detto: il numero di emendamenti oltre 3.000 non mi spaventa, saranno tutti valutati gli emendamenti alla legge finanziaria, alla legge di stabilità, come si chiama adesso. Vi sarà un piano di dismissioni entro fine anno, ha detto: nel 2014 arriveremo a una crescita del PIL stimata intorno all'1,1%, che è più alta dello 0,7% e non di poco, stimato recentemente, due settimane fa, dalla Commissione europea. Sentiamo Saccomanni su questo. Dopo una grave crisi grave e prolungata, gli ultimi dati congiunturali segnalano che l'attività economica si sta stabilizzando e che il Paese si sta avviando verso una graduale ripresa. Nel 2014 la dinamica del prodotto è stimata pari all'1,1%, e a partire dal 2015 la crescita del PIL si porterebbe su livelli vicini al 2%. E su questo tema è intervenuto anche, come anticipavo, il numero uno dell'Enel, Fulvio Conti, a Mix24 questa mattina, tra l'altro sulle dismissioni, o quindi su quote anche di Enel che dovessero essere cedute. Conti ha detto di non avere nessun problema, ad avere 200-300 mila azionisti in più, ma sulla ripresa ha detto beh, il carico fiscale va ridotto e va incoraggiato questa riduzione, anche però dopo aver valutato la fine del dibattito parlamentare. Beh, io credo che sia opportuno aspettare che finisca il dibattito parlamentare e poi dopo analizzeremo. Noi premiamo perché ci sia maggiore riduzione. Ma l'indirizzo che ha preso all'inizio, ecco, quello è il punto vostro. Perché dobbiamo ridare soldi certezza ai costi delle imprese e più soldi in tasca ai lavoratori. E di previsioni ha parlato in maniera molto scettica anche il numero uno della Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha detto il 2014 non sarà un anno di ripresa anche a causa della legge di stabilità, a meno che questa non venga corretta. Il nostro paese ha assoluta necessità ed urgenza di una poderosa operazione di sottrazione, meno spesa pubblica e meno tasse. Ecco, noi ci auguriamo che nella conversione di, in sede parlamentare questo avvenga. Sì, vedo gli ascoltatori molto scettici al 349-238-6666 sulle possibilità della ripresa. La fiducia è l'ultima cosa a morire. Di solito, però, ripeto, le previsioni di Saccomanni sono in contrasto con quelle diffuse nemmeno due settimane fa dalla Commissione europea, che collocava la ripresa italiana ad un modesto 0,7%. Come va la produzione industriale a settembre? Cresce rispetto al mese precedente, più 0,2, ma sul mese di un anno prima, quindi sul settembre del 2012, continua a essere in calo meno 3% e siamo al 25esimo calo tendenziale, quindi anno su anno, come caduta della produzione industriale. E questo, insomma, no? Qualcosa dovrebbe dire, anche se il Centro Studi Confindustria prevede un leggero recupero anche nel mese di ottobre. La Banca d'Italia oggi rende noto come la caduta dei prestiti bancari si stia stabilizzando. A me un po' ricorda la barzelletta di quello che cade dal grattacielo e a metà gli chiedono come va e lui dice fin qua tutto bene, perché ho capito che si stabilizza la caduta, però resta sempre una caduta. I prestiti per le famiglie fanno meno 1,1% anche a settembre, i prestiti alle imprese fanno meno 4,2%. Ho capito che non peggiora, però sempre una caduta è. E ancora, il tasso delle sofferenze bancarie resta invariato al 22,8%, il tasso di crescita dei depositi bancari ha ridotto la marcia a più 3,7%. Comunque la Banca d'Italia dice c'è qualche segnale di recupero, si attenua alla debolezza del mercato, meno, e tra l'altro dice, ricordo come i giudizi di chi fa l'agente immobiliare siano leggermente più positivi sul calo dei prezzi. Stiamo sempre raschiando il barile della speranza, lasciatemelo dire, mentre per quello che riguarda la annosa vicenda di Alitalia, mercoledì 13 novembre è convocato il Consiglio di Amministrazione, non più domani, questo per motivi organizzativi. Resta confermato un piano di lacrime e sangue, 1100 esuberi più altri 1100 contratti che erano a tempo determinato da non rinnovarsi, aerei a terra e rotte tagliate, anche perché poi il 14 di novembre scade la data ultima per partecipare all'aumento di capitale. E poi lo scandalo dell'ATAC che si sta allargando a macchia d'olio, perché insomma, c'è una parte del paese, come noi raccontiamo da un paio d'anni, che proprio non ne vuole sapere di accettare il fatto che la musica è cambiata. Oddio, quando è un reato era sbagliato anche prima, ma insomma in questo periodo, e continua bellamente a usare alcune municipalizzate. Ecco perché le municipalizzate dovrebbero spesso uscire dal perimetro della politica, mi dispiace dirlo, ed essere gestiti da manager veri, non da manager che sono spesso politici trombati o amici dei politici, dei sindaci, dei presidenti di regione e quant'altro. È un tema tutto italiano quello delle municipalizzate, un ibrido assurdo. Comunque l'ATAC, per anni i biglietti falsi emessi dalla stessa azienda ATAC venivano utilizzati per creare fondi neri e finanziare politici di diversi schieramenti, ecco appunto quello che si ricordava. anche se i più attivi, da quello che emerge dalle indagini, nel saccheggio ai danni dell'azienda e della collettività sarebbero stati gli uomini di Gianni Alemanno, l'ex sindaco, capitanati da Francesco Bianco. Bianco, messo da Alemanno nell'azienda, è l'ex, uno degli ex membri del Nucleo Armati Rivoluzionari, i NAR. Chi ha memoria del terrorismo italiano si ricorda i terroristi neri, per metterla così. Allora, una truffa da 70 milioni di euro l'anno, in cui avrebbe avuto un ruolo anche la criminalità organizzata. Tutto questo mentre l'ATAC agonizza sotto un debito miliardario e perde 150 milioni di euro l'anno. Sono già stati rinviati a giudizio 15 imputati, che l'inchiesta si affianca anche alle assunzioni facili nell'ATAC. Poi ci sono casi pazzeschi, insomma, l'ex amministratore Adalberto Bertucci ha fatto assumere il figlio, il genero, la cognata del figlio, il nipote, l'ex segretaria, il figlio dell'ex segretaria, la nuora dell'ex segretaria, la figlia della segretaria del figlio. Ma è un trattato di antropologia, ho perso il conto. Oltre all'ex vice sindaco di Guidonia e quello di Monte Libretti. Meno male che le nascite sono in calo in Italia, nel caso di Alberto Bertucci, ad Alberto Bertucci, perché con una famiglia più allargata non so a dove si sarebbe arrivati. Addirittura la figlia della segretaria del figlio. Veramente difficile, eh? Sembra un trattato sui legami elementari di parentela. Oltre all'ex vice sindaco di Guidonia, appunto, la nuora dell'ex segretaria. Ma guarda che bisogna avere una certa intelligenza malata per arrivare a assumere la nuora dell'ex segretaria. Oddio, ancora l'assessore alla mobilità della Giunta Alemanno, Sergio Marchi, piazzò in ATAC 8 protetti, tra cui l'ex fidanzata di un collaboratore. Ma io dico, ma pure la ex? Qui siamo un paese di una generosità incredibile. È la tua ex e la piazzi. Forse, vabbè, forse per quello che è la tua ex, non lo so. L'eurodeputato Antonio Tajani trovò un posto nell'azienda per l'ex assistente parlamentare Vincenzo Piso. Il coordinatore del PDL romano Gianni San Marco fece entrare in ATAC come segretario personale del direttore industriale una 25enne cubista. Io vorrei capire, massimo rispetto per le cubiste, anzi grande rispetto per le cubiste, rispetto ai nomi che abbiamo citato, però ho capito che ballare sui cubi aiuta a equilibrarsi, però mi dovete spiegare cosa serve come segretaria personale del direttore industriale una 25enne cubista. E va bene, ancora un paio di niente. Il sindaco di Roma Ignazio Marino oggi a Radio 24 ha detto: se qualcuno ha frodato, rubato o stampato moneta falsa, chiedo l'aiuto di tutti perché porterò in procura qualunque segnalazione o informazione. Questi delinquenti devono essere messi in galera e vanno buttate le chiavi. Ho capito, al di là di buttare le chiavi, leviamo il condizionale: se qualcuno ha frodato, rubato. Qui c'è un'inchiesta con 15 imputati, mi sembra che l'accusa sia molto chiara. Comunque Marino, uno come è stato evidenziato sui giornali, ha frodato, ha rubato, addirittura ha stampato moneta falsa, perché stampare biglietti falsi è come stampare moneta falsa, sì. Io chiedo l'aiuto di tutti perché qualunque segnalazione la porterò in procura e questi delinquenti che hanno rubato denaro pubblico devono andare in galera e devono essere buttate le chiavi. Oh, dopodiché se l'ex amministratore Adalberto Bertucci vuole venire in trasmissione a spiegarci che non è vero che ha fatto assumere il figlio, il genero, la cognata del figlio, il nipote, l'ex segretaria, il figlio dell'ex segretaria, la nuora dell'ex segretaria, la figlia della segretaria del figlio, oltre a altri personaggi, ben venga, no? Io voglio vedere, però, cioè, mi piacerebbe la figlia della segretaria del figlio. La figlia della segretaria del figlio. Tutte queste madri prolifiche, mi sembra, vabbè. E poi anche la Corte Costituzionale italiana, qui non c'è reato, ci mancherebbe. Allora, nel 2012 i giudici costituzionali italiani sono costati all'erario 41 milioni di euro. Voi dite, è tanto poco che la Corte Costituzionale, eminente, egregia, costi 41 milioni di euro. Non lo so, facciamo un paragone con quella britannica, che pure lì c'è la Corte Costituzionale. Sapete quanto costano i giudici britannici costituzionali? 12 milioni di euro. Allora, o in Gran Bretagna non c'è diritto, o questi sono sottopagati, o voglio dire lavorano poco, lavorano solo i nostri, ma insomma costare tre volte e passa i giudici britannici mi sembra un po' tantino, visto che il costo della vita in Gran Bretagna non è così più basso rispetto a quella italiana. Tre volte quella inglese. L'ha scoperto Roberto Perotti, nostro ospite molte volte, economista, e la retribuzione media di un giudice della Corte Costituzionale in Italia è 492.000 euro contro i 217.000 euro della media britannica. Voi direte, vabbè, ma la Gran Bretagna... Allora andiamo in America. In America costano 170.000 euro, tradotti in dollari. Il dato, tra l'altro, non include molti benefits, quindi vantaggi a favore dei giudici italiani. Li cito. Le auto blu con via card e telepass annesso. I costi dei viaggi ferroviari. Gli aerei e i taxi effettuati per ragioni inerenti alla carica. Un cellulare, un PC portatile... Eppure i costi dell'utenza telefonica domestica. Allora, massima difesa della magistratura e del suo ruolo costituzionale. Però, se non volete essere accusati di essere una casta pure voi, forse 492.000 euro, con massimo rispetto per il lavoro dei giudici della Corte Costituzionale, sono troppi. Porca miseria, con tutti gli altri benefits. Fate un bel gesto, vogliamo essere pagati come giudici inglesi. La metà. Immagino che questo appello andrà deserto, ma anche oggi ai tutti i componenti dell'ATAC che hanno fatto assumere addirittura la nuora dell'ex segretaria e hanno mangiato a man bassa da quello che si scopre, ma anche ai giudici della Corte Costituzionale che facciano un bel appello e dicono noi vogliamo dimostrare che siamo sopra le parti, che non apparteniamo a una casta, rinunciamo a metà del nostro stipendio. La canzone di questa settimana e di quella scorsa, Roxy Music, Brian Ferry, Niente per sempre, tutto passa, anche se ci fate sempre vedere la solita vecchia scena. Prima o poi non ci sarà più questa rubrica, ma voglio dire, ma la manteniamo tutti i giorni. Ma perché uno fa assumere la ex? La cubista 25enne? L'ex fidanzata? Ma che è sta cosa l'ex? Chiudetele ste municipalizzate, basta, non se ne può più. Rendetele un altro tipo di società, fate entrare i capitali privati, almeno pagheranno gli azionisti, pagheranno i privati. Tanto l'abbiamo capito tutti che per piazzare i trombati della politica, gli amici degli amici, la nuora dell'amico, dell'ex fidanzata, della suocera, del figlio, della segretaria, del cognato, della maledettissima sorella. Si può iniziare così lunedì. Più 0,77% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,50% Londra, più 0,10% l'America. ...17:39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per fare la borsa adesso e poi commentare anche Lega Coop e la manovra del governo, quello che ha scoperto sulle 24 ore, che forse con la Tasi paga e Tasi, comunque paga e Tasi, ma rischiamo di pagare l'IMU tale e quale, tel quel. Scrive un ascoltatore, devo dire un paio. Beh, però attenzione, lei ha ragione, ma attenzione a fare di tutto un'erba un fascio, che con l'ATAC è un doppio senso, ci sta, tutto un'erba un fascio, perché non ci sarebbe nulla di male nell'assumere un parente se questo ha le capacità e quant'altro. No, guardi, non so, magari dico una cosa incostituzionale, perché poi però io non credo più al, anzi questo paese è talmente contaminato dal familismo amorale che io sarei per evitare, lo so non è bello, magari tu hai un figlio, hai una nuora, hai una cognata, una suocera bravissima, e mi rendo conto che possa essere anche un elemento di discriminazione, però non credo più alla serietà nell'amministrazione pubblica, nelle municipalizzate, ma non solo, quando vedo i parenti di mezzo. Sarei per proibirlo e basta, soprattutto se è un bene pubblico. Poi nel privato uno fa quello che vuole, che assuma tutte le amanti, cubiste, segretarie del mondo, poi l'azienda fallisce, sono cavoli suoi e dei suoi azionisti, e ne pagherà penalmente o civilmente. Però nel pubblico non ci credo più, non ho più nessuna fiducia che uno possa assumere la nuora, la suocera, l'ex fidanzata o quant'altro solo perché è più brava degli altri. Quindi sarei per eliminarlo alla radice. Mi rendo conto che non sia così meritocratico, che rischi di creare altre discriminazioni, però abbiamo avuto le quote su tutto, e facciamole non quote, nessun parente fino al secondo grado dentro un'azienda partecipata dal comune, dalla regione, dalla provincia, dallo Stato. Vediamo se funziona. Allora, la borsa, dicevo bene, oggi soprattutto Fiat più 2,5, A2A più 2,40, UbiBanca più 2,17, Mediolanum più 1,90, Telecom più 1,70, come Intesa San Paolo e il Banco Popolare, l'1,40 lo guadagna Fondiera Assai, ma anche Steam Microelectronics ed Enel, l'1,20 è il rialzo di Autogrill e della Popolare di Milano, ma anche di Unicredit. Azimut meno 2,17%, Mediaset meno 1, questi peggiori titoli tra quelli maggiore capitalizzazione, Pirelli meno 0,90, CNH meno 0,70 come Todd, e G-Tech meno 0,60%. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Hola. Allora, tutte positive le borse europee, Milano in linea, Telecom Italia. Telecom si è un po' riscattata dopo il brutto tonfo seguito alla presentazione del piano industriale, certamente un riscatto parziale, più 1,7%, mentre venerdì aveva perso il 5%, naturalmente sulla performance di venerdì aveva influito l'annuncio e il collocamento del bond convertendo da 1,3 miliardi, che quindi ha influito sulle quotazioni. Per il mercato invece il riscatto di oggi è certamente un rimbalzo tecnico, ma dall'altro canto secondo gli operatori per abbassare il debito di Telecom non può, è sempre più probabile l'ipotesi di una vendita di TIM Brasile, e questo viene apprezzato dal mercato, anche se industrialmente non tutti gli azionisti sono d'accordo, come abbiamo visto. Sì, tra l'altro è al rush finale appunto la vendita dell'Argentina, questo su Telecom, però vanno bene oggi tendenzialmente le banche e soprattutto Fiat più 2,5. Per quanto riguarda Fiat c'è stato diciamo un allungo sul finale che ha portato il titolo a scambiare ai massimi della seduta e guadagnare il 2,5%, mentre il settore auto nel resto d'Europa è stato abbastanza al palo, è stato piantato, tant'è vero che l'indice europeo ha perso lo 0,1%. Una crescita progressiva di Fiat come è stata quella dell'indice milanese, che ha chiuso come tu ricordavi ai massimi di seduta più 0,77%, mentre i titoli bancari e anche in parte a 2A hanno beneficiato di un'ulteriore correzione dello spread BTP Bund. A2A ha sfruttato i conti positivi di giovedì, ma anche l'impegno annunciato a continuare a ridurre il debito, e l'abbassamento dello spread gli dà anche una mano. Dal punto di vista invece del settore bancario, UbiBanca è stata la migliore, più 2,1%, non può tutte, sfruttato una correzione dello spread e un buon andamento dei bancari e un buon andamento di settore in attesa dei conti di Unicredit che dovrebbero arriveranno a borsa chiusa, Unicredit ha guadagnato l'1,20%, non è stata la migliore dei bancari, Intesa San Paolo più 1,7%, Banco Popolare più 1,6%, hanno fatto meglio di lei. È andata bene anche la Popolare di Milano dopo un avvio negativo su cui continua a pesare un po' quell'incertezza per quanto riguarda il rinnovo degli organi sociali. Allora, peggiori titoli, Azimut meno 2,17%, Mediaset meno 1%, chiudiamo su questi. Sì, per quanto riguarda Azimut è una correzione che è seguita a un buon andamento la scorsa settimana, più 3,4%, ha poi piazzato anch'essa un bond convertibile e aveva annunciato dati di raccolta positivi. La correzione di Mediaset è dovuta fondamentalmente a due fattori, innanzitutto un fattore di settore, perché nel Regno Unito BSkyB oggi ha perso quasi il 10% a causa della perdita dei diritti della Champions League e dell'Europa League a favore di BT Sports, il ramo dei canali televisivi del gruppo British Telecom, e questo ha fatto precipitare il titolo del 9% e ha influito sul settore media. Dall'altro canto c'è un certo timore, circolato anche in descrizione del weekend, che Fininvest possa limare la partecipazione in Mediaset, possa quindi piazzare attraverso un collocamento accelerato una piccola parte della propria quota Mediaset, e questo, certo, ha finito per penalizzare il titolo e ha perso l'1%. Migliori e peggiori in assoluto oggi in borsa, Nexia, ex Schiaparelli più 24, Arena più 18, Poligrafica San Faustino più 18,40, Bioera più 7,90, peggiore invece la Roma Calcio, pesa il pareggio, meno 10,78, Ross meno 7,14, Montefibre meno 5,70% e Set Pagine Gialle meno 4%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso il traffico, vedo moltissime battute sui parenti, alcuni citano la era di Modena, la municipalità di Verona, sì, lo so, purtroppo qui l'arco costituzionale si ritrova al suo completo, spesso nel collocare i trombati politici o le amiche trombate, nel senso di della politica. Di nuovo in diretta con Focus Economia, c'è chi mi chiede se io ho dei parenti qui in radio, e come no, certo, non lo sapete che Milan, Spezia, la Roscagna, Carbone, sono tutti parenti miei, no? Anche con Cruciani stiamo analizzando l'albero genealogico, ma di cosa stiamo parlando? Dopodiché alcuni dicono, ma anche nel privato capita così. Ho capito, ma nel privato, a rigor di logica, almeno pagherà il privato. Cioè, se l'imprenditore vuole assumere una persona incompetente e la vuole assumere per altri legami di parentela, affettivi, sessuali, poi ne pagherà le conseguenze. Il problema è che non lo puoi fare nel pubblico, perché sono soldi di tutti. I soldi, i debiti da cui è travolta l'ATAC, 1.150 miliardi di euro di perdite all'anno, chi pensate che li pagherà? I parenti, la cubista, la nuora della segretaria, della figlia, del nipote? Ma per favore, andiamo con una buona notizia, vai. Sì, una buona notizia, parzialmente per carità, ma di questi tempi tutto va bene, che è arrivata qui nella sede del Sole 24 Ore oggi nel corso delle giornate dell'economia cooperativa, GECO, organizzate dalla Lega delle Cooperative, e riguarda proprio i possibili occupati nel mondo delle cooperative di domani. Ne parliamo con il presidente della Lega Coop, Giuliano Poletti. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Voi riunite, lo dico a tutti per chi non vi conoscesse, 15.000 cooperative, giro d'affari intorno ai 78 miliardi di euro, quindi imponente, e nel 2012, poi parleremo magari di come va il 2013, avete chiuso con un rialzo comunque del fatturato, quasi il 5%, occupate quasi 500.000 di persone e avete 9 milioni di soci. Poi arriveremo, lo dico già prima che mi iscriviate, al 349-238-6666 e su Facebook, arriveremo anche alla tassazione per le cooperative e al ruolo di raccolta del risparmio. Vorrei però partire dalla ricerca che avete presentato, che se ho ben capito sarebbero addirittura 700.000 i giovani, immagino under 35 in questo caso, sotto i 35 anni, disposti a fondare una cooperativa? Sì, c'è un lavoro che è stato fatto naturalmente su un campione, ma esplodendo, come si vuol dire, questo campione, il dato dice che una quantità rilevante di giovani interpellati da questo punto di vista dichiarano di essere interessati e disponibili ad autopromuovere una loro attività imprenditoriale e a farlo in forma cooperativa. Questo naturalmente con delle precise come posso dire, volontà, nel senso che hanno delle aspettative. C'è chi dice che vorrebbe occuparsi di produzioni agricole biologiche, chi si vorrebbe occupare di commercio, c'è chi naturalmente lavora e pensa alle attività nel campo dei servizi, penso alla rete, internet e quanto adesso collegata. Quindi abbiamo un largo ventaglio di opzioni che comunque sul piano almeno della disponibilità a provarci testimoniano la volontà di questi giovani di mettersi alla prova e quindi pensare di risolvere, tra virgolette, il problema della loro occupazione attraverso l'auto-occupazione, quindi non andando a cercare un lavoro, ma immaginando di crearselo un lavoro. Ecco, i settori dove si concentrano, tra l'altro vedevo che appunto dal punto di vista geografico metà sta al nord del paese, di questi giovani del campione, 42% al sud, e tra l'altro il livello di istruzione è medio-alto per il 70% di loro. Ma dal punto di vista dei settori definiti più attraenti da questi giovani? Ma naturalmente abbiamo alcuni che sono quelli tradizionali, per cui probabilmente c'è da immaginare che questa dichiarazione, ad esempio il settore della distribuzione del commercio, sia figlio del fatto che sanno che la cooperazione è presente in maniera particolare in questi comparti. Ma ci sono anche elementi particolarmente interessanti che riguardano ad esempio i segmenti della cultura, dello spettacolo, del turismo, cioè attività che insomma abbastanza raramente vengono immaginate come fonte di reddito, vengono piuttosto immaginate come contesti attraverso i quali uno vive meglio la propria vita. Ma evidentemente questi giovani pensano che quelle attività fatte anche in forma comune, in forma condivisa, in forma collettiva, in forma cooperativa, possano rappresentare uno buono sbocco occupazionale, un'opportunità di fare impresa. E dal nostro punto di vista hanno veramente ragione, perché se oggi guardiamo alle dinamiche del nostro paese scopriamo che questi sono contesti ad alto potenziale di occupazione o di occupabilità, e probabilmente molti giovani pensano anche al fatto che, siccome non hanno molti capitali, la cosa su cui possono investire è la loro competenza, la loro capacità, la loro voglia di fare. Quindi probabilmente la scelta di questi settori è figlia un po' della loro passione, un po' della loro cultura, un po' delle loro aspirazioni, ma anche della consapevolezza che non è molto facile fare impresa avendo pochi capitali. Vabbè, se non è, oltre che non molto facile, delle volte è quasi impossibile. Venendo però all'andamento dei consumi, perché voi insomma siete un termometro importante sul paese, come altre grandi catene di distribuzione, della distribuzione organizzata, di quello che sta capitando. Allora, abbiamo visto nei primi 8 mesi, il dato è ancora Istat e riguarda ancora i primi 8 mesi dell'anno, un calo delle vendite al dettaglio del 2,2%, che ha colpito i generi non alimentari in maniera più forte, un meno 3%, però anche i generi alimentari, meno 1,2%. Io ricordo sempre che quando parliamo di consumi alimentari un calo anche dell'1-2% può sembrare poco, ma in realtà è molto, perché parliamo spesso di generi e di consumi incomprimibili o che non si vorrebbe comprimere in molti casi. E oggi appunto l'indagine di Deloitte su quello che è quella che è l'aspettativa delle famiglie italiane per le festività natalizie, il cosiddetto Christmas Survey, insomma, vede un budget medio di spesa di 477 euro a famiglia, un altro calo rispetto al 2012 di quasi il 2,5%, e in linea tutto sommato con la spesa media a livello europeo di 450 euro. Però attenzione, in Europa c'è un leggero aumento complessivamente dato della spesa per Natale, in Italia invece c'è un calo continuo, e la Coldiretti proprio 2 giorni fa ha segnalato come salgano a 4 milioni di italiani quelli che non potranno permettersi pranzi o cenoni di Natale. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, presidente della Lega Coop Poletti, dicevamo prima del GR, dei dati che arrivano, gli indicatori che arrivano su consumi ancora in calo nonostante varie dichiarazioni, anche quelle di Saccomanni di oggi, che il 2014 sarà un anno in cui il PIL crescerà dell'1,1%. Nei vostri vari osservatori, quindi supermercati in primo luogo, Ipercoop, notate una differenza rispetto ai dati aggregati che ho fornito prima? Ma in linea con i dati che sono stati rappresentati. È evidente che siamo in una situazione dove c'è ancora un grande stato di incertezza, perché questo problema è ancora del tutto presente e certamente non aiuta neanche la discussione pubblica aperta intorno al tema tasse, tasse sulla casa, IMU, non IMU. Tutti gli elementi di incertezza ovviamente sono un elemento di freno ai consumi. Insieme a questo c'è un dato che va considerato. Ormai da 2 anni, 3 anni in Italia si riduce la propensione al risparmio, cioè i consumi in Italia sono scesi parallelamente a una riduzione del risparmio, quindi i cittadini italiani avevano meno reddito da spendere, hanno continuato a spendere meno di prima, ma usando una parte dei loro risparmi. In Europa le cose non sono andate così. In Europa la propensione al risparmio è sostanzialmente stabile, quindi noi siamo di fronte a un dato doppiamente negativo: riduzione dei consumi, ma riduzione dei consumi che, nonostante si realizzi, è comunque attutita dal fatto che i cittadini italiani hanno speso una parte dei loro risparmi per continuare a pensare, a comprare e a consumare. Quindi il problema è un problema particolarmente acuto e purtroppo credo non possiamo pensare che ci sia un'inversione significativa di tendenza a breve, perché l'altro elemento, che naturalmente fa riferimento al reddito disponibile per i consumi, è un altro elemento sempre problematico, perché l'occupazione continua a diminuire. Quindi se continuiamo ad avere per il 2014 un dato sull'occupazione che continuerà a peggiorare, ad avere un dato con dei punti interrogativi, altro problema di incertezza sugli ammortizzatori sociali e il fatto che ci sia una copertura economica degli ammortizzatori, cioè noi ci rendiamo conto che tutti gli elementi di preoccupazione che si aggiungono sono un elemento di blocco e di riduzione del potenziale dei consumi. Quindi da questo punto di vista purtroppo pochi segnali positivi da segnalare. Ecco, ma voi che cosa volete fare da grandi? Perché mentre avete una rete capillare sul territorio, lo ricordavo, anche e soprattutto delle COP, quelle che tutti conosciamo come COP o ipercop, aumenta considerevolmente quella che è la vostra raccolta di risparmio, visto che parlavamo di risparmi poco fa, ormai a 10 miliardi e 4. C'è chi vi accusa di essere, di fare concorrenza sleale, scorretta alle banche, cioè di essere diventati una specie di merchant banking anche con investimenti, però non siete sottoposti ai vincoli a cui la Banca d'Italia sottopone, anche a partire dal controllo e della vigilanza a cui sottopone le banche normali, quelle che fanno raccolta del risparmio. Allora, voi raccogliete il risparmio nei vostri punti vendita, ma 10 miliardi e 4 non è che state cambiando pelle? No, intanto perché noi non possiamo e non raccogliamo risparmio, nel senso che la forma che si adotta è quella del finanziamento da soci, quindi quelli che finanziano le cooperative sono i soci delle cooperative, un cittadino che non è socio non può fare questo tipo di operazione. È un'operazione che facciamo da molte decine di anni, quindi non è per niente nata ieri e non è per niente in aumento. Ad esempio, nell'ultimo anno, in linea con quello che sta capitando su altri versanti, anche i soci delle cooperative di consumo, peraltro il finanziamento da soci non si applica solo alle cooperative di consumo, ma a tutte le cooperative, perché la legge lo consente in questo senso, quindi non cambiamo assolutamente mestiere, non c'è alcun dubbio. Quel tipo di attività è l'attività che la legge prevede e viene fatta con dei vincoli molto precisi, cosa che non hanno i cittadini che vanno a fare depositi bancari, che li fanno per l'entità che vogliono. In questo caso un socio di una cooperativa di consumo non può depositare, quindi non può prestare alla sua cooperativa più di 34.000 euro. Ci sono una serie di vincoli che sono legati alla quantità di patrimonio che la cooperativa ha e quindi la cooperativa non può raccogliere oltre la soglia, quindi chiedere o ottenere finanziamento da parte dei propri soci oltre quella soglia. E appunto da questo punto di vista quindi le cose si fanno secondo le regole e si fanno appunto rispettando le norme in questo senso. Peraltro una parte di queste attività è un'attività che possono fare anche altri soggetti, ad esempio le carte fedeltà prepagate che servono per finanziare la spesa, diciamo così, anche un altro soggetto commerciale lo può fare. E questi 10 miliardi e 400 milioni come li impiegate? Sono impiegati fondamentalmente sull'attività della cooperativa, perché noi naturalmente realizziamo centri commerciali, facciamo investimenti, gestiamo una serie di attività. Poi ci sono altre attività che sono, come posso dire, attività di tipo finanziario, che quando c'è una liquidità della cooperativa superiore a quella che viene quotidianamente impiegata nella propria attività, viene utilizzata una cooperativa, ma qui bisognerebbe andare a vedere ogni singola specifica situazione. Anche in botte in borsa li mettete, perché 2 miliardi e 200 milioni sono investiti in azioni, se ho ben visto. Sono investiti in azioni per una parte, per un'altra parte sono investiti in titoli di Stato. Anche qui c'è un tema di garanzia, come posso dire, di solidità patrimoniale di quell'azienda, quindi questi elementi andrebbero verificati e analizzati puntualmente per ogni singola cooperativa, perché ogni cooperativa ha i suoi parametri, i suoi indici, i propri modelli di informazione ai soci, quindi c'è tutta un'attività che è da una parte legale e legittima perché la legge lo consente, e due, perché è appunto corrispondente ad una modalità attraverso le quali le cooperative che hanno dei vincoli rispetto alla modalità ordinaria di finanziarsi sul mercato. Classicamente un'impresa di capitali può avere l'accesso alla borsa o alla quotazione, cosa che una cooperativa non può fare, e quindi questi strumenti sono strumenti ormai tipici, solidi, consolidati della forma cooperativa. Quindi, ma voi avreste un problema se la Banca d'Italia vi vigilasse? Ma non avremo un problema nello specifico sulla vigilanza, avremo un problema sull'impianto logico. Non è risparmio e non è raccolta di risparmio, e se la Banca d'Italia vigila la raccolta di risparmio, in questo caso dovremmo chiederci allora se deve essere vigilato qualsiasi finanziamento che un socio fa alla propria azienda, perché le cooperative non sono le uniche che sono finanziate dai propri soci, anche le altre imprese possono essere finanziate dai propri soci. Allora, se l'istituto è l'istituto finanziamento da soci, deve essere trattato da finanziamento da soci. Se entriamo in un altro campo, ma non è il nostro caso, noi non siamo nell'altro campo, siamo nel campo del finanziamento da soci. Ecco, un'ultima, perché vedo già gli sms, lo sapevo, un'ultima domanda riguarda invece la tassazione. Allora, su questo molto si è discusso negli anni scorsi, anche per le polemiche, le ricordo, lei è stato nostro ospite assieme a Caprotti in alcuni casi, quindi proprietario dell'Esselunga. Che dice, adesso la sintetizzo in maniera un po' brutale, qui c'è una concorrenza sleale, noi siamo dei soggetti che pagano le tasse in maniera tra virgolette normale, e poi le cooperative invece hanno numerose agevolazioni. Ma a che punto siamo sulle agevolazioni fiscali? Perché a me, io ricordo che praticamente esistono solo quando i soci reinvestono gli utili nella cooperativa come agevolazione fiscale, mentre sull'utile normale, quello che uno si porta a casa, la tassazione è identica al resto dei soggetti privati, o no? Esattamente. Oggi la tassazione sulle forme societarie cooperative è identica a qualsiasi altra forma societaria per tutte le tipologie di tassazione, dall'IRAP all'IVA, tutte le altre tasse che ci sono esattamente identiche. Sulla tassazione sul reddito d'impresa c'è una parziale non tassazione, ma quella parziale che è limitata in alcuni casi al 30% del 100%, quindi c'è comunque una fascia molto limitata di reddito che non è colpito dalla tassazione. In quel caso, e comunque sempre, quel utile non può essere distribuito, diventa una riserva indivisibile delle cooperative che mai nel tempo potrà essere distribuito. Quindi siamo di fronte ad una situazione molto particolare, perché attraverso questo meccanismo che si costituiscono le riserve delle cooperative, che sono anche lo strumento che consente a queste aziende di vivere nel tempo. Noi abbiamo una vita media dell'impresa cooperativa che è circa il doppio della vita media delle altre imprese. Perché? Perché accumulando capitale attraverso le riserve, queste vengono investite e quindi si garantisce nel tempo la vita della cooperativa. Una domanda al volo: il 2013 come lo chiuderete, visto che ormai ci siamo? Sarà un anno di sofferenza, molto diversificato tra settore e settore, perché ci sono settori in grande difficoltà, penso a quello delle attività, delle costruzioni, dell'edilizia, mentre altri si difendono meglio, ma comunque la situazione è difficile. Peggio del 2012, e teniamo conto che c'è un segnale per noi, purtroppo, a cui non siamo per nulla abituati, che è quello occupazionale. Noi abbiamo continuato ad aumentare l'occupazione fino ad un anno fa. Da un anno, nel 2012, ci siamo sostanzialmente fermati. Nel 2013 non abbiamo ancora i dati, ma rischiamo di avere un segno o zero o meno qualcosa. E se pensiamo che negli altri 4 anni di crisi l'occupazione cooperativa è aumentata del 2% all'anno, per noi è un segnale molto preoccupante, ma è, come posso dire, il segno che anche la capacità di resistere, la capacità di reagire, poi anche di queste imprese che hanno fatto grandi sacrifici e limato tutto quello che si può limare di fronte ad una durata di questa crisi che diventa di 5, di 6 anni, anche queste imprese soffrono moltissimo. Abbiamo tolto e sgravato le famiglie italiane dalla prima rata, è già un fatto, le famiglie italiane non l'hanno pagata, e dalla seconda rata le coperture saranno trovate e saranno indicate nei prossimi giorni attraverso anticipi che riguardano attività finanziarie, quindi le attività bancarie, assicurative. Allora, ancora sull'IMU, perché così il Premier Letta ieri, però il Sole 24 Ore oggi sostiene una cosa un po' diversa, che sì, magari l'IMU riusciranno a trovare la copertura per la seconda rata, 2 miliardi e 4, ma Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. Ma cos'è questa storia che con la TASI rischiamo di pagare come con l'IMU? Siete cattivi, eh? No, il fatto è che purtroppo, diciamo, un conto è la difficile, affannosa ricerca delle coperture per superare l'IMU sull'abitazione principale di quest'anno, ma poi l'anno prossimo è tutta una partita nuova, e quindi questa TASI sostanzialmente redistribuisce il carico fiscale, perché propone un carico ulteriore aggiuntivo sulle seconde case, sulle imprese, sui negozi, sui capannoni e così via, e un pezzo lo chiede ancora, torna a bussare alla porta dell'abitazione principale. Con le regole scritte nella legge di stabilità, tra l'altro, bussa anche alle porte delle abitazioni principali dove l'IMU non bussava mai, perché sono case di modesto valore, secondo il fisco, ma insomma, le case di più basso valore catastale sono 5 milioni, non sono 3. Sono 5 milioni di case che l'IMU non l'hanno mai pagata, nemmeno nel 2012, perché la detrazione di base, quella da 200 euro, bastava ad azzerare l'imposta, proprio perché erano case di modesto valore catastale. Arriva la TASI di detrazioni non ne ha, almeno, ripeto, nella versione scritta nella legge di stabilità, per cui un po' di soldi li chiede anche a questi che non avevano mai pagato l'IMU sull'abitazione principale. Accortisi del problema, le prime ipotesi che sono emerse erano quelle di introdurre una detrazione di base, come per l'IMU, e alzare l'aliquota standard dall'1 per 1000 a un livello un po' più alto, e quindi avvicinandola ulteriormente all'IMU. A questo punto, diciamo, la TASI e l'IMU diventano sorelle gemelle quasi. Ecco, non parliamo di parenti, che già ho fatto una puntata sull'ATAC, però dove i parenti arrivano a qualunque grado. Detto questo, sì, questo a patto che tra i 3000 emendamenti presentati venga accolto quello che prevede un livello di esenzione, se no sarebbe anche peggio dell'IMU. Se no rischia di essere anche peggio, perché le possibili modifiche che i comuni possono fare alle aliquote in sede appunto locale danno ai comuni un potenziale di leva fiscale molto ampio proprio nel periodo in cui, anche per la questione IMU, poi per la questione tagli, poi per tutta un'altra serie di ragioni, le finanze comunali sono più in difficoltà. Ti faccio una domanda un po' da vergine, però insomma, ma adesso, ammesso che poi verrà introdotta la detrazione come per l'IMU, ma che senso ha avuto allora cambiare il nome IMU TASI, cioè, se poi alla fine il prelievo fiscale sull'abitazione sarà sostanzialmente simile? Io non penso purtroppo di saper rispondere in maniera diciamo compiuta a questa domanda. Lì era un tema evidentemente politico, e proprio perché il tabù della tassazione sull'abitazione principale è politico, non solo del PDL ma di tutti, anche le modifiche che si faranno sono molto complicate. insomma, cambia il nome ma non la sostanza, potremmo dire Tasi che l'Imut ascolta, per usare un vecchio slogan, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale. Comunque c'è poco da ridere qui. Bisognerebbe anche fare un'operazione di trasparenza sul fisco. E poi aspettiamo Cottarelli. Ha ragione chi scrive: ma qua di tagli non si parla mai. Aspettiamo Cottarelli, che adesso ha convocato anche i sindacati, Mr. Spending Review. Intanto, grazie a Gianni Trovati, la testa del governo è una giungla, perché con 3.000 emendamenti voglio vedere come si va, anche se il ministro Saccomanni ha detto no, ma noi siamo tranquilli. Beh, lui è tranquillo, tanto tranquillo che prevede una crescita dell'1,1 l'anno prossimo. L'Unione Europea ci ha detto la settimana scorsa no, sarà dello 0,7, anche qua o ce li giochiamo all'otto, oppure cerchiamo di trovare una certa uniformità tra le previsioni di crescita per il 2014. Grazie intanto a, sì, giustamente l'ascoltatore dice: ma che domande fai, Barisoni? È chiaro che è il gioco delle tre carte, ma no, non voglio pensare questo. Grazie Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.